9 in punto, la versione di Oscar. Oh, oh. Buongiorno cari ascoltatori, buon martedì 29 di maggio e San Massimo da Verona. La puntata di oggi in teoria era dedicata alla piccola spending review, però come sempre poi la diretta ha le sue necessità, perché io avevo previsto di mettere più avanti, dopo aver commentato la piccola spending review, voci naturalmente del sistema delle imprese, continuando ad andare avanti sul nostro ascolto di Disperati Mai, e tra queste anche dall'area colpita dal sisma. Poi pochi minuti fa, quando proprio mentre stavo lanciando la trasmissione, c'è stata una nuova scossa molto forte che si è avvertita in tutto il nord, da Milano a Torino, ma soprattutto concentrata nelle aree già colpite dell'Emilia. E a questo punto è chiaro che anticipo: noi avevamo scelto di dar voce per il sistema delle imprese, per farci raccontare quali erano i danni a giorni dagli eventi, dove erano ricominciate le produzioni, che cosa concretamente è giusto chiedere a sostegno del sistema delle imprese colpite nella provincia di Ferrara, nella provincia di Modena. E avevamo deciso di chiederlo a Monica Talmelli, che è con noi e che prima, mentre la stavamo chiamando, proprio per effetto della scossa che si è avvertita fortissimo anche qua in studio a Milano, quindi figuriamoci dove stanno loro, ce l'ha dovuto improvvisamente lasciare perché naturalmente erano uscite. Adesso l'abbiamo riacchiappata, è con noi Monica Talmelli. Innanzitutto la saluto e la ringrazio, e le chiedo innanzitutto che cosa ha avvertito. Era molto forte la scossa che si è sentita adesso? Buongiorno, sì, la scossa era molto forte. In questo momento tutti i miei dipendenti sono nei piazzali aziendali, sono tutti usciti, sono rientrata e non so di che entità sia stata la scossa, ma direi appena forse sotto quella di sabato notte, quindi sì, siamo un pochino scossi, mi passi il termine. No, beh, doppio, insomma. Sì. Allora, diciamo, lei è rappresentante di Confindustria Emilia Romagna nel Consiglio Nazionale della Piccola Industria, sì. di Confindustria, e quindi abbiamo scelto proprio lei perché in quanto rappresentante del sistema dei piccoli nel sistema aveva avuto modo nei giorni immediatamente successivi al sisma di farsi un'idea, parlando anche con molti colleghi nei diversi settori in cui sono concentrate le produzioni. Le abbiamo tentato di descrivere in questi giorni dopo il sisma. Se dovesse farci un quadro per cominciare, al di là del giusto tributo di merito al sistema delle imprese e alla popolazione di quelle parti, che è gente che si tira sulle mani, che ovviamente non è gente che si mette a protestare, a chiedere sussidi eccetera, però è anche giusto tuttavia poi fare un quadro sincero delle mancanze laddove ci sono degli interventi pubblici, un quadro sincero delle mancanze laddove ci sono dei mancati ascolti pubblici nel predisporre misure di emergenza per consentire alle imprese di riprendere la lavorare al più presto. Allora, come stanno le cose secondo lei? Ma le cose sono abbastanza difficili perché intanto il terremoto ha colpito sì la provincia di Ferrara, ma ha colpito l'area nord della provincia, che è la più ricca, che da un punto di vista dell'industrializzazione detiene il maggior numero di posti di lavoro, e quindi per noi è veramente un disastro. Quello che oggi noi ci aspettiamo allo stato dell'arte e alle condizioni date è questo. A tutt'oggi non abbiamo ancora ricevuto un coordinamento regionale della protezione civile che ci consenta con un'unica direttiva tempi certi sulle prassi da adottare. Questo non è assolutamente banale. Le imprese hanno bisogno di sapere se e quando e come possono rientrare in propri stabilimenti, far ripartire gli ordini, perché la concorrenza non scherza, in un mercato così complesso e difficile, al di là della solidarietà che poi queste aziende ricevono, ci sono ordini che non vengono evasi, ci sono posti di lavoro in sospensione, non sappiamo nemmeno bene in sospensione di che genere, se in cassa integrazione, ma insomma questo in questo momento non è il problema principale. Noi abbiamo bisogno davvero che la protezione civile, che ancora domenica scorsa in un coordinamento regionale a Bologna con Vasco Errani è presente, tutto l'establishment della protezione civile, ci diano delle direttive precise. Io stessa, che nella mia azienda non ho avuto danni particolari perché fisicamente sono nel comune di Ferrara, quindi nella città di Ferrara. Aspetti, la sua azienda, la Famara, in che settore è, per farci capire? Noi ci occupiamo di abbigliamento, sì. Avevamo bisogno di avere una certificazione che ci consentisse, come dire, di stare tranquillamente in azienda allo stato dell'arte. C'era una confusione totale. È vero che il comune di Ferrara ha messo a disposizione un numero telefonico a cui telefonare per chiedere tutta una serie di informazioni, ma è anche vero che questi numeri vengono presi d'assalto dai cittadini, diciamo, normali e dagli imprenditori, e quindi noi non riusciamo ad avere accesso a una serie di informazioni, c'è ancora confusione. Abbiamo assolutamente bisogno che questa confusione in tempi brevissimi venga diradata. La seconda questione è una questione nazionale un pochino più complicata. Noi abbiamo bisogno che allo stato dell'arte ci sia un decreto legge urgente, per urgente intendo nell'arco dei prossimi 5-6 giorni, non nell'arco delle prossime 4-5 settimane, che stabilisca la percentuale di rimborsi sui danni avuti dalle imprese e anche sui tempi di erogazione, perché lei capisce bene che gli imprenditori stanno già rimboccandosi talmente le maniche, stanno facendo fare preventivi, vogliono capire i danni subiti e vogliono ricominciare a ricostruire al più presto, ma in che percentuale verranno rimborsati non è un elemento secondario, e in una situazione economica di questo genere probabilmente noi ci aspettiamo che, se le risposte, faccio un esempio, possono essere un 20% di rimborso sui danni complessivi subiti, probabilmente alcuni imprenditori non avranno le risorse finanziarie per riuscire a ricostruire le proprie aziende e decideranno di non farlo, e noi perderemo dei posti di lavoro che non verranno più rimpiazzati da altri posti di lavoro. Siamo molto preoccupati, ripeto, è la zona della nostra provincia più ricca in assoluto da un punto di vista imprenditoriale. Ho sentito molti imprenditori in questi giorni. Direi che l'atteggiamento mentale è assolutamente proattivo, tutti vogliono ripartire, tutti vogliono rassicurare in primis i propri dipendenti e poi i propri clienti che le attività riprenderanno, ma molti mi hanno espresso la loro preoccupazione finanziaria e economica per riuscire poi ad accedere eventualmente a rimborsi sui danni. Devo dire che il territorio ha anche risposto in tempi veloci con le nostre banche locali. Noi abbiamo due casse locali, quella di Cento e quella di Ferrara, hanno immediatamente istituito corposi fondi, sia a sostegno delle famiglie, quindi sostanzialmente con un blocco del pagamento delle rate dei mutui per le famiglie, che diventa fondamentale in questo momento in cui chi ha perso il posto di lavoro non sa ancora se e quando verrà pagato, come verrà pagato e in che misura, e anche la nostra Camera di Commercio ha stanziato fondi per questo terremoto. Devo anche dire, e non voglio suonare civica, ma è lo stato dell'arte, che questo terremoto, per nostra fortuna, ha fatto pochissime vittime, di questo noi siamo ovviamente solo contenti, ma paradossalmente non sta ricevendo, a livello dei media nazionali, sui giornali che non siano quelli locali, già la notizia è in decima pagina, non sta ricevendo tutta quell'attenzione di cui noi in realtà riteniamo di dover avere diritto, insomma. L'Emilia Romagna è una regione ricca di volontariato, lei lo ha detto prima, quando ci sono stati eventi di qualunque genere le nostre popolazioni sono andate e hanno aiutato. Oggi abbiamo bisogno noi ci aspettiamo un aiuto altrettanto importante e fattivo. No, devo dire la verità che questa era stata una delle ragioni per le quali avevamo deciso ieri di ascoltarvi, al di là poi del fatto che, come si vede qui, l'emergenza non è terminata, la magnitudo del sisma di pochi minuti dopo le 9, quando è cominciata la nostra diretta, è del 5.9 come si vede dai filmati che vanno in onda nelle reti All News, ci sono nuovi crolli nei palazzi storici delle aree colpite dal sisma. Persino a Milano è stato deciso di sgombrare alcuni palazzi a scopo cautelare, dicono le agenzie, per l'intensità della scossa avvertita. Eccoci qua, siamo tornati, siamo sempre in collegamento con Monica Tarmelli. Naturalmente i colleghi del GR hanno, come più che comprensibile, facoltà di interruzione del flusso ordinario delle trasmissioni per fare un punto della situazione. Siamo tornati nell'emergenza del sisma con la scossa di poco successivo alle 9, quando avevamo cominciato la nostra diretta di questa puntata della versione di Oscar. Abbiamo ancora con noi Monica Tarmelli. Stavo dicendo, ci sono ancora quindi due emergenze, ma quelle proprio della primissima ora che non sono risolte, perché da una parte lei ci ha detto c'è una questione che riguarda la protezione civile per il coordinamento, diciamo così, della messa in sicurezza ufficiale, della comunicazione con una ricognizione fatta dalla protezione civile stabilimento per stabilimento, impresa per impresa, per capire chi dove come può ed è abilitato a riprendere la produzione. Dall'altro c'è una questione che riguarda invece la ricognizione della possibilità di sostegno economico deliberate per le imprese. Ecco, da questo punto di vista il rischio maggiore, per così dire, visto che lei diceva la concorrenza non fa sconti ovviamente, ma quali sono i settori in cui si rischia davvero immediatamente di più per la stagionalità, per le caratteristiche della domanda attuale, e in cui quindi, diciamo, se dovessimo dare una richiesta, inoltrare una richiesta alle autorità di governo, l'emergenza vera da dove dovrebbe cominciare? Per non la parte di protezione civile, quella è ovvia che deve essere per tutti sullo stesso piano, per questioni di sicurezza sul lavoro, ma per assicurare una ripresa il più rapido possibile, sostegno più rapido possibile a chi corre il rischio nell'unità di tempo di essere più spiazzato degli altri ancora dalla concorrenza. Secondo lei il governo da dove potrebbe utilmente cominciare? Una domanda molto, molto difficile a cui dare risposte, è molto difficile, perché in realtà tutto il settore industriale in Italia oggi lavora senza licenza di magazzino, quindi lavoriamo settore per settore quasi just in time. È difficile fare previsioni di pianificazione, le aziende quando hanno 3-4 settimane di pianificazione di produzione sono già veramente tanto. Quello che posso dire che per esempio nel settore del cemento esistono delle fonderie di prestofusione che sono oggi quelle che forse stanno soffrendo ancora di più, perché hanno i clienti che senza i loro prodotti non riescono assolutamente ad assemblare il prodotto finale, e quindi so che le fonderie stanno soffrendo ancora di più. Le fonderie, quindi. Le fonderie, ma ci sono anche tutta la meccanica di precisione, che ovviamente non è sicuramente secondaria. La zona di cinto è ad altissima densità metalmeccanica nella sua generalità, e poi della meccanica di precisione ci sono automotive e altri settori, e so dagli amici imprenditori che sono veramente tutti in situazione di emergenza. Io stessa, che per fortuna in maniera ero operativa, in funzione della serie di sfilata e di operazioni avevo assolutamente bisogno di essere operativa nella settimana del terremoto, quindi sì. Non possiamo permetterci, credo, delle grandi differenze tra un settore meteorologico e un altro. Va bene, e purtroppo la qualità del collegamento sta rapidissimamente deteriorando, quindi non so quanto siamo ancora in grado di farla sentire. Io volevo fare un'ultima domanda che era relativa a questa: l'interrelazione con voi delle autorità di governo passa attraverso le prefetture ordinarie, o avete avuto un segnale attraverso il quale instradarvi, cioè il governo vi ha detto a tutte le associazioni di categoria di impresa eccetera eccetera, fate riferimento a, che ne so, sottosegretario XY presso il Ministero dello Sviluppo Economico, cioè si è fatto vivo il governo con voi oppure no? Niente, No, coordinamento la prefettura, che comunque quello sono i poteri ordinari presente, che le... esatto. Poi noi insomma siamo molto vicini a Bologna, i coordinamenti regionali in qualche modo funzionano e quindi molto spesso c'è poi la relazione regionale che è quella che in qualche modo ha la relazione poi a sua volta diretta sul nazionale. Ecco, questo è un po' il senso della filiera. Va bene, forse era il caso che il governo però in qualche maniera decidesse una soglia di attenzione diversa. Diciamo sommessamente, non vogliamo essere accusati per l'ennesima volta anche oggi di insufflare o di avere nostalgia. Io non ho niente di tutto questo, mi limito a dire che questa è un'area del paese nella quale sono concentrate ad altissima intensità lavorazioni che sono vitali, fondamentali per le ricadute che hanno sull'intero PIL nazionale e sulla struttura delle nostre esportazioni, e bisogna averne consapevolezza, e quindi oltre alle strutture di emergenza che è necessario predisporre, come ovvio per tutti i sismi allo stesso modo che colpiscono il territorio nazionale, qui bisogna avere anche una particolare attenzione alle esigenze produttive, e fino a questo momento è mancata. Io ringrazio Monica Talmelli e adesso andiamo in pubblicità. Eccoci qua, tornati in studio. È ovvio che la programmazione di questo numero continui a subire delle conseguenze per effetto del sisma che è avvenuto appena abbiamo lanciato la trasmissione. Si è sentito fortissimo in tutto il nord, avete sentito, è voltato in un range da 5.7-5.9 di magnitudo, è stato avvertito con una forza, se possibile nella parte nord-occidentale, ancora più forte di quella delle scosse iniziali. Ci sono nuovi crolli, nuovi feriti, e vedrete che tra poco i colleghi mi interromperanno di nuovo con una edizione straordinaria delle news del GR. E nel prosieguo della trasmissione oggi, anzi dovevamo cominciare con Eugenio Massetti, che adesso è qui con noi perché abbiamo preferito la prima mezz'ora dedicarla a Monica Talmelli, che è una imprenditrice della piccola impresa di Confindustria, che ci ha fatto il punto dalle zone colpite dal sisma e di come siamo ancora indietrissimo sia per le ricognizioni di protezione civile delle imprese, sia per qualunque tipo di finestra di attenzione da parte del governo nei confronti delle esigenze della ripresa delle produzioni. Il governo a oggi non ha ancora delegato nessuno dei suoi componenti o sottosegretari a questa funzione, che è distinta da quella del coordinamento dell'emergenza, che invece avviene, come ovvio, attraverso le prefetture nella protezione civile. E avete sentito di come nei diversi settori Monica Talmelli ci ha spiegato dalle fonderie all'automotive eccetera eccetera, i danni cominciano a essere molto seri perché la concorrenza in questo periodo in questa fase del mercato in cui ciascuno va con ordini a vista ovviamente non prende prigionieri, e quindi i danni poi saranno aggiuntivi e più seri rispetto a quelli già molto seri inflitti ovviamente dal sisma. Ed è con noi adesso però diciamo tentiamo di ridare un ordine a questo programma sconvolto dal terremoto. È con noi il presidente di Confartigianato Imprese dell'Unione di Brescia, Eugenio Massetti. Domenica scorsa Confartigianato Imprese ha tenuto la sua assemblea e ha fatto un po' il punto della condizione della crisi nelle 14.000 sue imprese associate, quindi stiamo parlando di una unione territoriale di Confartigianato forte tradizionalmente, di un grande apporto all'economia di una grande città industriale e con distretti di straordinaria rilevanza per la produzione come Brescia. Anche Massetti ci diceva adesso al telefono, io lo saluto e lo ringrazio, ha dovuto correre fuori per il sisma, adesso è tornato al telefono con noi. Grazie, buongiorno Massetti. Buongiorno Giannino, buongiorno. Allora, sono abbastanza ancora scosso perché l'ho sentita in pieno la scossa. Sì, ma infatti uscire tutti gli operai dipendenti dall'azienda. Infatti è stata molto forte anche qua. Senta, riprendiamo i temi della vostra assemblea. Allora, a nome delle 14.000 imprese che rappresenta, dovesse dire quello su cui è un po' più colpito di quello che si poteva fare e non ha visto fare, e di quello che secondo lei ragionevolmente si potrebbe fare con poco, ecco, senza sovvertire le strategie nazionali del governo al tavolo europeo, bla bla bla bla. Ma insomma, ecco, fare due esempi concreti di quello che nel popolo delle sue imprese rappresentate manca, continua a mancare ed è inspiegabile che manchi. Beh, guardi, noi ci aspettavamo in questi anni veramente delle decisioni che andassero incontro alle esigenze nostre, ma così facciamo proprio l'elenco della spesa, il costo della benzina che si è raddoppiato, il costo dell'energia che non è diminuito, il costo delle tasse che è aumentato, e poi potremmo fare veramente la lista della spesa. Ci aspettavamo anche da governi amici, si fa per dire, nel senso che dicono di rappresentare il mondo imprenditoriale, delle scelte più decise per abbassare la pressione fiscale. Purtroppo questo non è avvenuto, anzi è tutto raddoppiato, e alla fine qualcuno si dovrà pur prendere le responsabilità, ma in Italia nessuno si prende mai le responsabilità. Alla fine, guardi, noi vogliamo solamente che lo Stato ci lasci lavorare. Veramente sembrano parole fatte, e prima di tutto le faccio i complimenti da parte di 14.000 artigiani nostri iscritti per il suo intervento di domenica, ho ricevuto tantissimi messaggi. Ma qualcuno però mi dice, ma allora cosa facciamo adesso? Perché l'analisi c'è, sappiamo quello che ci serve. Beh, lo strumento che noi abbiamo in mano è probabilmente l'unico e l'ultimo, che è quello del voto, perché a qualcuno i messaggi verbali glieli abbiamo mandati, domenica scorsa ancora di più, ho ricevuto anche segnali, devo dire, preoccupanti da parte di chi si sente intoccabile, però io ricordo che già un anno fa ad un ministro che è venuto a trovarci all'assemblea, che ci disse che tolto che una certa forza politica noi non avevamo nessun riferimento, si è cominciato con Milano, dove qualcuno ha perso le elezioni, ma abbiamo visto qua anche questo ultimo passaggio elettorale, che il movimento delle imprese, il movimento del ceto moderato, è più in movimento di chi di solito è abituato a cambiare partito, a cambiare riferimento politico. Cioè, ci siamo stufati veramente di gente che promette e non mantiene, però è un dramma, perché noi siamo proprio quelli che non hanno più un riferimento politico e siamo in balia così di proposte elettorali, di proposte di legge su come modificare. Noi vogliamo tornare a votare chi ci rappresenta direttamente, vogliamo dare il voto, vogliamo dare la preferenza alla persona che viene nelle aziende, ci dice cosa vuol fare quando va a Roma, e a fine mandato deve tornarci a dire ho fatto questo. Allora noi vogliamo giudicare su queste cose qua, diversamente sarà sempre uguale, però il problema è questo. C'è la ricorrenza dei caduti della guerra, avremo la ricorrenza dei caduti della recessione, perché quello che sta avvenendo in giro per l'Italia è preoccupante. E non bastano gli psicologi, non basta l'assistenza, i numeri verdi di pronto soccorso per quanto riguarda la necessità degli imprenditori, noi adesso vogliamo risposte concrete. Perché diversamente la paura è che qualcuno, quando da fuori di testa, poi non lo si controlla più. Questo è il vero dramma degli imprenditori italiani. Allora, io sono completamente d'accordo con Massetti, e tra l'altro apprezzo l'occasione di domenica, è stata una di queste. Io giro molto sul territorio per unioni territoriali di Confindustria, per la piccola impresa di Confindustria, per le ASCOM dei commercianti, con le diverse organizzazioni dell'artigianato, insomma Rete Impresa Italia. Io non guardo alla tipologia dell'associazione di impresa, perché la mia opinione è che bisogna combattere, uso questo termine, naturalmente dialetticamente, non sto dicendo che bisogna violare la legalità, ma per difendere l'impresa nella tradizione italiana, dove sta, com'è, certo sforzandosi poi di patrimonializzarla, farla crescere, ma senza distinzioni. Cioè, io non sono di quelli che dicono solo manifattura e per il resto no, l'artigiano che è sotto una certa soglia, ma poverino, ma cosa vuoi che faccia? Ecco, la mia opinione è che bisogna essere da questo punto di vista. Però Massetti e i suoi hanno avuto anche, tra virgolette, il fegato, il coraggio di toccare uno dei punti che abitualmente, e lo capisco, la rappresentanza d'impresa stenta a investire, e cioè il punto è quello di che cosa succede quando la catena della rappresentanza nella politica non è più in grado, o non ha più voglia, o di aderire, di rappresentare le istanze del mondo della produzione. E qui non è una questione, perché non vogliamo entrare, non c'entra Tomassetti, non c'entro io, nel giudizio della piena libertà di ciascuno di formarsi le sue convinzioni, destra, sinistra, grillo, non grillo. Qui c'è un problema però di ordine generale, perché è un fatto evidente che la sofferenza enorme della piccola impresa italiana in questo 2012 non trova un ascolto adeguato, un'interlocuzione. È quasi come se protestando uno trovasse da parte del governo un atteggiamento, come dire, quasi di freddezza, come dire, ma perché diavolo pensate che dovremmo, come potete immaginare che noi possiamo darvi una risposta? Ecco, questa cosa della rappresentanza politica a cui mettere mano, secondo me è un punto di fondo, perché è giusto che avvenga a un certo punto, perché i legami tradizionali della rappresentanza si sono rotti. Posso? noi la nostra rappresentanza purtroppo in questi anni si è dimostrata molto debole. C'è un rischio di chi vuol dividere e continuare a governare, divide e timpera, no? Che ci mettono contro i nostri dipendenti e noi contro loro. Oh no, questo non va assolutamente bene. Nelle piccole imprese noi siamo uguali ai nostri dipendenti. La mia preoccupazione adesso, quando è venuta questa scossa, è un esempio, ma guardi, non è stata quella di uscire dall'ufficio e scappare fuori. Sono andato nel capannone a dire ai dipendenti di uscire velocemente perché c'era la scossa di terremoto. Questo dà l'esempio del rapporto che noi. Ma è vera questa cosa? No, ma certo che è vero. Io non voglio che si pensi che gli artigiani, gli imprenditori siano contro i sindacati, assolutamente. Però c'è un dato di fatto. Che in questi periodi gli unici che arrivano a gesti estremi sono solamente piccoli imprenditori. Io non ho visto un politico, non ho visto un bancario, non ho visto un rappresentante di casta che si è buttato, che ha gettato la spugna. Chissà perché. Le nostre rappresentanze sono talmente deboli che io quasi apprezzo, le dico, le rappresentanze sindacali dei dipendenti, perché loro i risultati li portano a casa. Perché noi forse diciamo la verità, la tradizione del movimento sindacale, ecco, che io spesso noi critico, non abbiamo una rete di salvataggio. Cioè quella di essere capace di bloccare a un certo punto la situazione di un paese, le piazze, le strade, cioè di farsi ascoltare, di imporre l'agenda, esatto, pubblica. Esatto, questo le associazioni d'impresa, esatto, e io non distingo, io parlo molto da non ce l'ha. Probabilmente dovremmo far da soli. Però il piccolo problema è che poi quando ci si trova in condizioni di totale mancanza di ascolto, esatto, e di totale mancanza di interlocuzione politica, questo diventa un dramma vero, un dramma, esatto, vero. Allora, io qui continuo a ricevere tante lettere, faccio un esempio, perché poi sono delle lettere che, come al solito, poi chi ha una piccola impresa in mano e deve fare i conti con le strutture dello Stato e della sua maniera di rientrare del suo eccesso di debito solo a carico dei contribuenti, delle imprese e dei lavoratori, e l'imprenditore poi deve fare i numeri, e alcune di queste lettere che arrivano testimoniano mille volte meglio delle nostre parole in che cosa poi si traducano i presunti provvedimenti con cui questo governo dice vi stiamo soddisfacendo. Prendo a esempio la lettera che ci ha mandato Giuseppe Di Stefano, che riguarda proprio l'avvio a soluzione, vantato dal governo, criticato da questi microfoni invece, della certificazione dei crediti vantati dalle imprese nei confronti dei debiti commerciali che lo Stato non paga nei confronti delle imprese, o della compensazione fiscale. E allora ci scrive Giuseppe Di Stefano. Giuseppe Di Stefano dice: la mia società è creditrice di circa 600.000 euro da due comuni che hanno un ritardo di pagamento di oltre un anno, e allora vediamo che cosa succede se io decido di seguire la strada della cessione per ottenere liquidità. Cosa succederebbe? Allora, poiché con le norme che leggo per la certificazione, innanzitutto la cessione notarile ha un costo medio di 1.500 euro, poi nella cessione del credito a un istituto di credito, a carico dell'impresa sono gli interessi della cessione, che non sono bassi, e quindi io devo sommare alla cessione notarile, che ha un costo medio di 1.500 euro, interessi annui del 7%, che su 600.000 euro fanno 42.000 euro, dopodiché devo sommare, sempre a mio carico, la commissione di factoring della banca, che a questo punto è dello 0,4% mensile sui 600.000 euro per 12 mesi, e sono altri 28.800 euro. Dopodiché, scrive sempre Giuseppe De Stefano, devo aggiungerci sempre alle mie spese l'IRAP che devo pagare sugli interessi passivi pagati per la cessione. Deve pagare l'IRAP sugli interessi passivi pagati per la cessione. Avete capito? Quindi una terza somma di cose, di oneri, sempre e solo a carico dell'impresa. Giuseppe ci ha fatto il conto di quanto, seguendo la via quindi della certificazione e della cessione del credito prosolvendo a un istituto di credito prevista dal decreto, che viene vantato come risolutivo o come corposo avvio di una prova di buona disponibilità del governo verso le imprese, e il totale dei conti che ci ha fatto. A me era sfuggito per esempio il fatto che giustamente si paga l'IRAP anche sugli interessi passivi che sono a carico dell'impresa, ovviamente, e dovuti alla banca. E la banca che resta lei coperta, perché è l'impresa che resta esposta nei suoi confronti, in questo bel meccanismo. Su 600.000 euro di credito, il totale della spesa a carico di Giuseppe De Stefano risulta pari a 75.818,76 euro. Cioè, in altre parole, per questo meccanismo che viene vantato come una grandissima prova di buona disponibilità verso le imprese, la spesa a carico dell'impresa che è creditrice nei confronti dello Stato ladro che non paga è del 12% per il solo fatto che qualcuno ammetta di avere un debito nei suoi confronti. Che cos'è questa se non è rapina di Stato? Questa è la prova provata di come oramai siamo abituati a farci trattare da questi turlupinatori di professioni, dissipatori che non sono altro, che naturalmente allargano le braccia, ma io lo capisco, Monti, io capisco Passera, io capisco tutti quanti che dicono ma che cosa volete da noi? Noi almeno ammettiamo che il problema esiste. È vero, i governi precedenti neanche ammettevano che il problema esisteva. Mi dispiace dirlo, Tremonti in questo, la Ragioneria Generale dello Stato, ti accantonavano quando gli dicevi 70 miliardi di euro e 30 miliardi di crediti fiscali non pagati. Quindi è vero che c'è un passo avanti, ma santo Dio, il passo avanti per il quale una volta che lo Stato ammette di essere ladro mi ladreggia ancora di più è la prova che stiamo andando dal male a non meglio del male. Io non voglio dire il peggio, vedete un po' voi che cosa. Allora, ci sono migliaia di lettere che abbiamo ricevuto che testimoniano condizioni di questo tipo, e questo riguarda per i crediti fiscali, riguarda i pagamenti, riguarda il credit crunch delle banche, riguarda l'incapacità dello Stato di per dare una risposta selettiva a chi non è evasore fiscale ma dice se continuate a tartassarci io sono a zero con gli ordini, cosa volete, che chiudo l'impresa e ci uccidiamo tutti quanti? Ecco, questa è la testimonianza di una campagna che anche nel nostro caso, fino a questo momento, mi dispiace dirlo, come per i colpiti dal sisma, è rimasta priva di ogni risposta e di ogni interlocuzione. È stato come urlare nel deserto. Serve a qualche cosa? Io non lo so. A me viene voglia semplicemente di dire, evidentemente è il vento del deserto l'unico vento che in questa atmosfera pubblica è tollerato. Quando vedo poi i politici a porta parlare di presidenzialismo mi viene da ridere. È il presidenzialismo il problema? Dov'era il centrodestra che adesso dice che c'è la soluzione presidenziale francese? Ma mi facesse il piacere, questa è la verità. Il mio unico commento è occupiamoci di cose concrete, santo Dio. Allora, un ringraziamento intanto a Eugenio Massetti, presidente di Confartigianato Imprese dell'Unione di Brescia, e adesso andiamo alle informazioni stradali. Ecco, tornano i Dors, mi sembra che oggi abbiano anche un eco un corpo sinistro del solito. Ma a questo punto andiamo solo con telefonate. È chiaro che il tema della puntata è saltato, non ho parlato praticamente mai di spending review, però meglio così. Abbiamo dato voce intanto agli imprenditori colpiti dal sisma all'inizio e poi a Confartigianato Imprese Unione di Brescia, e sentiamo, ora abbiamo due telefonate, ci sarà solo il tempo per quello e poi domani tentiamo di ripristinare un ordine sperando che il sisma ci lasci in pace. Carlo da Milano, prego Carlo. Buongiorno Oscar. Eccoci qua, sì. La mia, per metà forse potrebbe essere una provocazione, però ci credo abbastanza in quello che le sto per dire. Sono un professionista, vivo la situazione che viviamo tutti quanti, vabbè, non sto a rielencarla, ansie, timori, paure, eccetera, eccetera. Il problema è quello che non versiamo allo Stato, cioè abbiamo sempre pagato tutto quanto, adesso c'è una grossa difficoltà. Ne dico la parola provocatoria, condono fiscale. Secondo me, se ci dicessero, ok, tu mi devi 100.000 euro, la faccio a grana grossa chiaramente, no? Mi dici tu che mi devi 100.000 euro, me ne dai 30.000, non un condono fiscale a 500 euro come hanno fatto anni fa che faceva ridere, no? Me ne dai 30.000 dilazionati in tre tranche, per esempio. Cosa farebbe questo? Che cosa porterebbe di vantaggio? Cassa per lo Stato, tranquillità per noi, perché sappiamo che non viviamo con l'incubo, no? Perché se adesso qualcuno non paga l'IVA, qualcuno non paga i contributi, non è perché non li vuol pagare, ma perché non hai quattrini per farlo. Questo mi sembra ovvio ed evidente. Mi potranno dire, ma così i soliti furbi beneficerebbero di questo condono e sarebbe sempre la solita solfa. Non è vero, perché tanto non mi sembra che tra i suicidi, tra i miei colleghi imprenditori che si sono purtroppo tolti la vita, ci siano dei furbetti o dei furbi. No, questo non pare neanche a me, sì, assolutamente, sono completamente d'accordo. E allora sarebbe logico trattare in questo senso. Beneficio per lo Stato, cassa. Beneficio per noi, tranquillità, diminuisce l'ansia, ricominciamo a dormire di notte. Carlo, guarda, mettiamolo a verbale, ci torniamo nei prossimi giorni, perché adesso non c'è tempo per dire come la penso. Mettiamolo a verbale, la mia idea è che non ho mai capito perché il centrodestra abbia perso l'occasione storica che aveva, e per cui è giusto che adesso si nasconda nel più remoto degli angoli, come deve fare il topo che ha paura, perché una misura generale di condono ha senso solo se cambiamo dalle fondamenta all'ordinamento. Questo è il mio problema. Cosa che bisogna fare? Bisogna fare fare in occasione di 7-8 punti di spesa corrente in meno, e bisogna riequilibrare tra le diverse forme di imposizione diretta e indiretta e patrimoniale, con poche imposte secche su cui mettere il più del nostro ordinamento. Ma questo ci dedicheremo una puntata. Farlo così in occasione della crisi rispaccherebbe l'Italia, perché immagino Repubblica che cosa scriverebbe. Monti non se lo può permettere di farlo, perché sennò Repubblica se lo mangia, questo è il problema, perché la divisione sociale che impera su questi temi, la demagogia che impera, la sinistra che vuole arrivare alla patrimoniale, diciamolo tutto. Ho letto anche domenica sul Sole un esercizio sulla patrimoniale, ma ci dovrò tornare sopra, perché quando vedo che anche il Sole 24 Ore fa gli esercizi sulla patrimoniale vuol dire che la patrimoniale sta arrivando. Aldo da Milano, prego Aldo. Buongiorno dottor Oscar Giardino, a lei e a tutti i suoi ascoltatori. Siamo da Roma comunque. Sì, ah, mi scusi. Senza, niente, si figuri. Senza, io quello che volevo dire è che i partiti, a prescindere dai prossimi rimborsi che dovrebbero prendere, ma aprissero anche le casse e devolvessero i nostri soldi alle popolazioni e soprattutto agli imprenditori per rimettere su le aziende. Bravo. Noi nel gruppo nostro di Facebook, Comitato del Sole, che stiamo prendendo le firme per il referendum per abolire stipendi e privilegi in tutta Italia, abbiamo delle aziende di Parmigiano che non è possibile che devono svendere perché sono stati colpiti da questo mondiale. Aldo, guarda, intanto allora riprendo e faccio mia la stessa vostra proposta: che i partiti ci facciano vedere le loro buone intenzioni, facciano belli annunci all'asta chi vince di più per dare i loro soldi dei contribuenti a chi è colpito la sisma. Viva proposte di questo tipo, e speriamo che qualcuno ascolti invece che parlare del presidenzialismo. Appuntamento domani, perché mi stanno tagliando.